Ed eccoci tornati in onda, sono le 18.59, state ascoltando il martedì femminista e lesbico autogestito e abbiamo al telefono una delle forze, insomma, della libreria Tuba. Siamo contentissimi perché c'è un doppio appuntamento questa settimana, ci tenevamo in realtà anche per il funeral party, ma ci facciamo raccontare intanto. Ciao! Ciao a tutte e tutti, buonasera! E così si chiude questo ciclo. Sono 7 anni che c'è Tuba, che è una libreria delle donne e molto di più al punto, e si chiude però perché se ne apre un altro, perché Tuba diventa grande, diciamo, però, che non lascia ma raddoppia. Esatto, non lascia ma raddoppia, mi piace. Però è un posto che ci ha accompagnate, che ci ha visto in qualche modo nascere un'esperienza che è stata bellissima, e quindi ci faceva piacere salutarla tutti insieme, e quindi ci sarà un funeral party, una festa in stile più messicano, no? In cui festeggiamo anche la rinascita di Tuba e non la sua chiusura. Bene, benissimo, diciamo che ci saranno, insomma, sì, musica, delle meraviglie, ci saranno giochi, insomma ci sarà. No, io non voglio mancare al photo booth sul divano perché voglio la mia foto sul divano rosso dopo che ci ho passato non so quante ore, quindi assolutamente anche lo abbandoneremo. Questo l'avevo intuito dal messaggio, quindi sì, insomma, ci tengo a avere la fotina sul divano rosso di Tuba. No, invece scusate, raccontiamolo, nel senso, raccontaci in questi 7 anni che cosa è passato su questo divano rosso, a parte Clo, diciamo, però insomma che cosa è passato, che cosa vuoi magari ricordarci che è passato di lì e che sicuramente, insomma, poi ripasserà al Civico 39. Allora, a parte Clo, però abbiamo avuto una nutrita schiera di cosiddette stagiste, che sono le amiche che a furia di venire da Tuba hanno imparato a fare uno scontrino, a dare da bere, a sistemare i tavoli fuori, a dirti ehi, c'è qualcuno. No, quindi intanto ringraziamo il nostro zoccolo duro di amiche e di amici che ci hanno accompagnato in questi anni. E poi abbiamo presentato tantissimi libri, probabilmente, insomma, un centinaio, fatto laboratori su sessualità, allattamento, sessualità dei bambini, genitorialità, autocostruzione di giocattoli erotici. Abbiamo fatto lezioni di piazza sulle intersezioni tra il queer e i movimenti degli immigrati e le immigrate. Abbiamo fatto un festival dell'illustrazione delle donne che illustrano, abbiamo fatto un festival dedicato alle opere prime, abbiamo cantato, abbiamo organizzato feste, abbiamo fatto dibattiti in momenti in cui ci sembrava che ci fosse bisogno di uno spazio di confronto collettivo, abbiamo ospitato riunioni, lanci di collettivi, di progetti. Siamo state la sede della Lei di Fast per tanti anni, insomma mancano, sì. C'è tanta storia Tuba, ne siamo in qualche modo contente, ne facciamo anche l'abbiamo fatta tutte, esatto, l'abbiamo fatta tutte insieme. Sì, infatti, di questo siamo contente. E chiudete, in realtà, prima del party c'è proprio una presentazione di un libro. Volevamo anche parlare di questo, sì, stasera. C'è una presentazione di lusso, nel senso che Tremate, poesie d'amore per donne libere e ribelli, diciamo, il titolo al 2014 di un libro che si chiamava La poesia femminista del movement, in cui ci sono poesie di Unsex, dei collettivi di, oddio, adesso non mi ricordo i nomi di Audre Lorde e di tante altre, ripubblicato con un nome così più morigerato, tra virgolette, se vogliamo, però il punto e il contenuto è quello, l'introduzione l'abbiamo firmata io e Valeria Viola, una nostra vecchia conoscenza, ma soprattutto verrà presentato da Giulia Nani e da Lilith Primavera, che porteranno in musica alcune delle poesie, e quindi saremo in piazza, non saremo, saremo tra le piccole mura di Tuma, ma saremo in piazza amplificate, cercando di contaminare con parole e pensieri femministi il Pigneto. Che non gli guasta mai. Venerdì 28, quindi a che ora? Dalle 19, diciamo orario romano, ci convochiamo alle 7 per iniziare alle 7 e mezza vere. Ok, restate sui numeri dispari, 19, 39... è stato un caso comunque. Sarà bellissima la nuova Tuma, è una Tuma un po' più adulta e sarà stupenda. Ma poi alla fine del party farete anche, porterete il divano rosso in spalla fino al 39? No, lo lascio dire. Al 39 ancora non c'è il pavimento, quindi no. Ok, quindi ridiamo gli appuntamenti: venerdì 28, presentazione del libro Tremate, poesie d'amore per donne libere e ribelli, e dalle 19 circa, e poi sabato invece 29, grande festa dalle 19:30 in poi, il funeral party, perché Tuma si trasferisce al civico 39. Grazie. Noi ci auguriamo un buon lavoro, aspettiamo di entrare tutte al civico 39 e verremo a brindare sul divano rosso per l'ultima volta questo sabato. Grazie mille. A presto, un abbraccio. Un bocca al lupo. Ciao.